24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 50 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo venerdì 19 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone. Ho ascoltato prima i giusti rilievi sulla, come dire, la manifestazione di gioia dei tifosi napoletani. Però vorrei spezzare una lancia per i romani una volta tanto. Ho potuto fare un confronto sia diretto che facendomi raccontare da amici che abitano in altre capitali straniere, per esempio in Inghilterra o in Germania. Ebbene, io devo dirvi la verità. Tante mascherine, come le vedo a Roma, indossate da tutte le generazioni, anche nei locali pubblici, io in altre situazioni non le ho viste. E quindi, per una volta, perché siamo sempre abituati a flagellarci, a dire che va tutto male, che noi siamo, come si è visto a Napoli, anche un po' esuberanti, un po' troppo e forse anche incoscienti. Però a Roma, per quello che vedo, la gente è molto molto attenta anche a mantenere le distanze e soprattutto una marea di mascherine, non solo in centro, anche nei quartieri più popolari dove abito io. Benissimo, benissimo, questa è una buona notizia perché è un fronte non solo di rispetto delle regole ma di attenzione verso gli altri. Di cosa parleremo oggi? In questa terza parte di 24 Mattino avremo tra un attimo Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria e presidente della piccola industria, per parlare un po' delle richieste degli industriali al governo, di questo rapporto col governo, degli stati generali. E poi nella seconda parte arriveremo su questo benedetto, maledetto bonus vacanze che suscita molte perplessità anche negli operatori proprio per le modalità nelle quali in quelli che lo utilizzeranno sarà un po' una manna, perché pare che secondo Federalberghi almeno il 52% degli italiani che vanno in vacanza chiederà il bonus. Qua il tema Maria però è la fruibilità di questo, cioè come avviene la fruizione di questo bonus vacanza, ossia con 80% di fatto finanziato dall'albergatore che poi diventa un credito d'imposta eventualmente cedibile a una banca, l'altro 20% invece che puoi detrarlo tu, cioè è un filino complicato, però i nostri colleghi Deborah Rosciani se ne occuperanno Simone, sicuramente saranno nei dettagli in grado di fornire tutti gli elementi ai nostri ascoltatori che siano interessati a richiederlo. Sì, comunque le vostre voci, se volete, all'800 24 00 24 e al 349 238 6666 invece per gli WhatsApp audio. Buongiorno dunque a Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria, presidente della piccola industria. Buongiorno Robiglio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Eccoci qua. Maria, prego, inizia tu, vai. Buongiorno, buongiorno Robiglio. Senta, io vorrei andare subito su un tema concreto. Sappiamo che il governo sta lavorando a una deroga alle limitazioni per i contratti a tempo determinato. Sembra acclarato che il ministro dell'economia Gualtieri sia a favore di questa deroga. Molti tentennamenti invece vengono dal Movimento 5 Stelle. Per le informazioni che ha lei, come finirà? Ma guardi, finirà che come già da giorni noi continuiamo a sostenere, l'importante è che finisca, che si dia una mano alle imprese a riprendere la produzione, soprattutto lo sviluppo del paese e lo sviluppo del sistema imprenditoriale. Noi siamo molto preoccupati che spesso i nostri governanti si ostinano in discussioni sterili e non ascoltano il nostro grido di dolore e anche le nostre necessità. Cioè, il problema oggi non è tanto il tempo determinato o indeterminato. Qui si pensa che con atti di decretazione si possano mantenere o meno posti di lavoro. Oggi il problema più cogente per le nostre imprese è la carenza di liquidità, è la carenza di ordini e la grande preoccupazione che temiamo di dover ancora aumentare nei prossimi mesi, soprattutto tra settembre, ottobre e novembre. Che cosa chiedete, Robiglio? Quali sono le linee di indirizzo che chiedete al governo? Ma noi chiediamo innanzitutto quanto già da tempo a gran voce abbiamo chiesto, cioè da un lato misure di sostegno, sostegno per un'impresa che è davvero in difficoltà e queste misure stentano ad arrivare. Non a caso citavo la liquidità, che è un grande tema, un grandissimo tema, soprattutto per la piccola e media impresa, e poi non dimentichiamoci tutti i bizantinismi che hanno in qualche modo connotato la vicenda cassa integrazione. Un altro dei grandi problemi di questo nostro povero paese è che poi non ci sono mai i dati chiari, quindi quanto dice il presidente dell'INPS non coincide con quanto sosteniamo noi, cioè la cassa integrazione per in moltissimi casi non è arrivata, ma soprattutto in altrettanti casi è sopperita dall'imprenditore, perché la mancanza ovviamente di cassa integrazione in arrivo dall'INPS fa sì che i nostri imprenditori abbiano dovuto anticiparla in un clima già di scarsa liquidità, questo genera ulteriori difficoltà e apprensioni. Dopodiché chiediamo una politica che sostenga lo sviluppo, bisogna sostenere la domanda interna che oggi non c'è e questo è qualcosa che ovviamente è importante per le imprese perché possano tornare a produrre e a vendere i loro prodotti, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di avere sostegno e incentivi negli investimenti, perché un paese che non investe, un'impresa che non investe è un'impresa che è destinata all'obsolescenza. Quindi è proprio anche una questione, a mio avviso, di mentalità che deve passare da una mentalità vocata all'assistenzialismo, come in qualche modo è quella che connota buona parte dei nostri governanti, a una mentalità incentrata sullo sviluppo. E noi è da tempo che chiediamo questo, ma al momento pare non sia ancora arrivato tempo giusto. Senta Robilio, lei ha messo giustamente l'accento sulla liquidità. Leggo dal Sole 24 Ore in prima pagina: corsa delle banche ai prestiti BCE. Chiesti 1.310 miliardi, assegnati all'Italia oltre 200 miliardi, gli istituti italiani fanno il pieno a Unicredit 94,3 miliardi, a Intesa 35,8, domanda record per finanziamenti a 3 anni. Quindi alle banche stanno arrivando un sacco di soldi dalla BCE. Qual è il problema nel farli arrivare poi alle imprese che li chiedono? Ho fatto qualche chiacchiera con imprenditori che mi dicono, imprenditori che mi dicono le banche fanno prestiti a chi non ne ha bisogno. E a me, per esempio, che sono un piccolo ristoratore ed è un settore ovviamente in crisi, non me li danno. Ma guardi, io credo che stiamo trattando un tema che ormai non è il tema pre-Covid, è un tema nel quale ci dibattiamo da anni. Allora, il tema è il seguente: le banche hanno la liquidità sicuramente, ma non la distribuiscono. Io credo che vada risolta a monte. C'è un discorso che riguarda anche la gestione di questi aspetti da parte appunto dello Stato, cioè se le banche, come posso anche comprendere e comprendo, hanno delle regole, hanno delle situazioni che non possono far che distribuire i soldi a pioggia, deve intervenire il governo perché possa in qualche modo anche manlevare le banche stesse da problemi di incauti affidamenti o quant'altro. È ovvio che in una situazione come quella italiana continuiamo a passarci il cerino in mano. In realtà il cerino che sta ormai consumandosi ce l'hanno in mano gli imprenditori e per un motivo o per un altro i soldi non arrivano. Io posso dirle questo, i soldi non solo non arrivano ma prestissimo mancheranno del tutto. E questo sarà il vero problema, perché ricordiamoci che i posti di lavoro esistono se esiste il lavoro. Il lavoro esiste se c'è l'impresa. Quando chiude l'impresa, chiude il lavoro, chiudono i posti di lavoro. Qualcuno a questa, diciamo, sollecitazione dovrebbe sentirsi chiamato in causa. C'è un fronte quindi dal lato della liquidità, Robilio, che ha a che fare sicuramente con i problemi sui quali si è basato il provvedimento, il decreto liquidità. Insomma, l'abbiamo sottolineato più di una volta, il fatto che non sia stata data almeno inizialmente la manleva anche ai direttori di filiale per evitare di essere coinvolti addirittura certo. In indagini penali. Però c'è anche un fronte banche, secondo lei? Ci sono delle banche che proprio rallentano? Io credo che ci sia anche un fronte organizzativo, cioè dobbiamo essere tutti onesti e osservare che la situazione che si è creata a causa del Covid era impensabile, quindi mi rendo conto che anche la gestione organizzativa degli stessi istituti bancari che hanno dovuto essi stessi, mettere persone magari in condizioni di lavorare da casa piuttosto che ristrutturarsi, e in poche settimane le domande, le richieste di credito sono decuplicate a dir poco, se non centuplicate, io mi rendo conto che tutto questo abbia potuto creare gravi difficoltà. Però la verità è appunto la mancanza di un indirizzo, a mio avviso, specifico e chiaro, che abbia reso il flusso di liquidità semplice da poter attuare. Quindi io immagino che poi ci possano essere, immagino e so come Presidente Nazionale di Piccola Industria, che ci sono situazioni di varia tipologia, quindi mi vengono anche segnalate situazioni di istituti di credito che in qualche maniera tergiversano e quant'altro, però non è, diciamo, la singola situazione che vorrei mettere in luce. A mio avviso il problema è generale e dipende appunto da uno scenario che non è stato inquadrato nel numero dei modi. A tutto questo, Robiglio, a tutto questo si aggiungono le notizie che arrivano da Bruxelles. Cito l'articolo di Marco Bresolin dalla Stampa, ma sono notizie che arrivano anche un po' ovunque. Il problema è che i cosiddetti quattro paesi frugali, Enrico Letta invece li ha chiamati i quattro paesi avari, cioè Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, vogliono legare l'assegnazione dei fondi a condizioni molto più rigide e si oppongono alla richiesta italiana di incrementare gli anticipi per il 2020, cosa che per noi sarebbe invece essenziale. Robiglio, se nel 2020 non arriva niente dai fondi europei, dove possiamo recuperarli, secondo lei? Dove il governo può recuperarli per fare fronte a tutte le richieste? Ma innanzitutto io credo che noi dovremmo attuare finalmente una politica di riforme che dimostri che questo paese ha voglia di cambiare ed è in grado di cambiare. Perché io credo sia necessario anche fare una certa autocritica. Quando parliamo dell'Europa sembra sempre che i cattivoni dell'Europa ci vogliano penalizzare. Dobbiamo anche guardare in casa nostra tutto quello che non è stato fatto. Quindi questo in primis è ciò che noi dobbiamo attuare, cioè una politica di riforme importante, riforme che incentivino, e qui vengo in parte alla risposta, allo sviluppo. Noi abbiamo un sistema imprenditoriale fortissimo, abbiamo degli imprenditori estremamente capaci, ma una capacità direi di creare impresa estremamente diffusa e un'eccellenza a livello mondiale. Bisogna che aiutiamo le imprese a crescere, a sviluppare, quindi a investire, e per poter investire bisogna anche supportare la fase dello sviluppo. È chiaro che se la visione di chi governa, come dicevo prima, è una visione di assistenzialismo, attenzione, non di assistenza, di assistenzialismo, ma non è una visione incentrata sulla crescita, il paese non può venire fuori, perché e poi qua ci chiediamo dove andare a prendere i soldi, il fatto è che i soldi sono sempre meno e alla fine il rischio è che si cerchi da darli a prendere dai soliti noti, cioè dalle imprese che non ne avranno più, e a quel punto non si potranno più prendere neppure dalle imprese. Quindi la logica è cambiare prospettive, cambiare missione al paese. Mi permetta anche di dire, chiamare in causa una situazione eclatante, un paese che decide di investire nell'istruzione, nella scuola, la metà di quanto decide di buttare nella fornace all'Italia, è un paese che applausi. Non ha visione futuro. Quindi applausi. Questo, cioè, non qui, possiamo qui continuare ha a dire... Un tasto... Qui ha toccato un tasto veramente delicatissimo. Due tasti. Bello che lei lo dica, perché avere dietro anche un'impresa che dice non si può andare avanti così con una scuola dimenticata è fondamentale. Scuola è l'elemento di base. Quando parliamo di sviluppo e quando parliamo di lavoro, se non abbiamo una scuola che forma e che è in grado di formare le competenze che servono appunto alle imprese del domani, direi soprattutto dell'oggi, per poter competere sui mercati internazionali, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi alla fine la domanda è dove prendiamo i soldi. I soldi non li prenderemo più, perché non ce ne saranno più. E il fatto che diamo sempre responsabilità in qualche modo all'Europa, che ci penalizza, a me francamente sembra una cosa inaccettabile. Sul fronte dei fondi dall'Europa, la posizione di Confindustria sul MES è chiara, Robiglio. Voi dite questi soldi bisogna prenderli con tassi di interesse così bassi, no? Siamo molto pragmatici, perché come imprenditori siamo abituati che quando le banche ci danno i soldi li prendiamo di solito, soprattutto se hanno interessi buoni. Robiglio, quando mai l'ha visto un finanziamento allo 0,08? No, infatti questo non volevo adesso lanciarmi su questi temi perché sono difficili, però appunto dico, se c'è un finanziamento ce lo danno a certi tassi, ne abbiamo bisogno, io anche qui mi permetta, non ho capito qual è il problema. Poi ci viene detto, ve lo diamo se ci date garanzie di utilizzarlo in un certo modo, lo dovete utilizzare per il sistema sanitario, e viva Dio, mi chiedo qual è il problema, non ho francamente, forse sono io che sono sbagliato, ma non riesco a capire certe logiche. Maria. Sempre sul rapporto con il governo, ci sono stati gli stati generali, il presidente di Confindustria Bonomi ha ricordato che gli imprenditori hanno dato 3,4 miliardi di accise sull'energia e ha chiesto il risarcimento. Il premier Conte ha invitato a volare più alto. Ci dica con sincerità che cosa pensa di questa kermesse degli stati generali e come sono alla fine i rapporti con Conte? Ecco, se mi permette, approfitto della sua domanda anche per ricordare che lo Stato deve circa 50 miliardi alle imprese, quindi quando parliamo di liquidità, se venissero anche pagati questi debiti sicuramente sarebbe molto interessante e opportuno per le imprese stesse. Noi siamo in qualche maniera convinti come Confindustria che non sia il momento più di tanto delle polemiche, ma sia assolutamente il momento di rimboccarsi le maniche. Quindi, come ha detto il nostro presidente Bonomi nell'audizione dell'altro giorno presso gli Stati Generali, siamo i primi che sanno di dover ottemperare anche a un impegno per il Paese, per le imprese e per tutti noi. Certamente mi pare che il tempo delle task force, degli stati generali, degli incontri, dei tavoli ci sia stato, bisogna fare le cose, perché alla fine continuano a passare le settimane, io credo che ci sia stata una grossa opportunità con la Commissione Colao, ha fatto un ottimo lavoro, io stesso sono stato ascoltato insieme ad altri membri di Confindustria, abbiamo portato delle proposte, hanno in qualche modo contribuito a sviluppare un progetto, il progetto è stato presentato, però è nata quindi l'esigenza degli stati generali. Insomma, la sensazione è che continuiamo a fare sterili incontri, riunioni e quant'altro, ma non si arrivi al dunque. Io penso, nelle poche parole di stamattina, di aver rappresentato le esigenze cogenti delle imprese italiane nell'interesse del Paese, e di lì bisogna passare. Grazie Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria, grazie presidente a voi della piccola e buona industria. Buona giornata. Una pausa e poi parliamo di questo bonus vacanze. Bonus vacanze, già ci arriva qualche messaggio degli ascoltatori, a tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Ci scrive un'ascoltatrice. Abbiamo prenotato in un residence piccolo in Trentino e il proprietario ci ha già detto che per questioni fiscali non accetterà il bonus. Un altro ascoltatore, Martino, parlavo alcuni giorni fa con alcuni albergatori delle Dolomiti. Nessuno di loro ha intenzione di accettare il bonus e lo possono fare perché hanno bisogno di liquidità e non di metter loro i quattrini che poi verranno recuperati con un credito d'imposta. Di questo parliamo adesso con Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. Buongiorno Messina, benvenuto. Tra l'altro lei ieri era là agli Stati Generali, no? Sì, buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Messina. Intanto ci faccia capire come sono andati questi Stati Generali, perché ho letto di posizioni contrastanti. Confindustria Alberghi si è definita delusa perché ha avuto soltanto un'ora per esporre le proprie opinioni, e probabilmente Confindustria Alberghi non è molto convinta della macchinosità del sistema bonus, mentre Marina Lalli, la presidente di Federturismo Confindustria, si è definita soddisfatta. In ogni caso sia Confindustria Alberghi che Federturismo chiedono finanziamenti, no, a fondo perduto e moratorie su tasse e imposte. La sua sensazione dell'incontro di ieri qual è? No, guardi, innanzitutto noi abbiamo partecipato, abbiamo trovato grande disponibilità da parte del governo e bisogna dargliene atto. Dalle 14 alle 18 ininterrottamente siamo stati seduti con il Premier e con il Ministro Franceschini, che ci hanno ascoltato. Chiaramente si sono messi all'ascolto di una situazione, devo dire, terrificante, che è quella in cui versa l'intera filiera del turismo, che non è e non può essere limitata semplicemente ai problemi dell'alberghiero, ma anche dell'extra alberghiero, degli stabilimenti balneari, delle guide turistiche, degli NCC, quindi un mondo che rappresenta questo famoso 13% del PIL nazionale. Abbiamo chiesto e abbiamo rassegnato al Premier due ordini di azioni, una che deve essere mirata al salvataggio delle imprese, e in questo senso liquidità, immissione di liquidità e tutta una serie di altri provvedimenti, e chiaramente l'altra linea di azione è quella della ripresa, del rilancio della filiera del turismo, e in questo contesto si innescano anche i bonus vacanze e tutta una serie di iniziative che abbiamo rassegnato. Le associazioni di categoria, devo essere onesto, hanno quasi tutte la stessa posizione, perché su problematiche di questo tipo c'è poco da dividersi, anzi c'è da fare fronte unico. Non parlo di Confindustria, perché evidentemente hanno avuto un problema di comunicazione al loro interno, considerato che la dottoressa Lalli ha rassegnato la posizione dell'intera filiera del turismo per quanto riguarda il loro punto di vista. C'è tanto da fare, abbiamo trovato grande disponibilità, abbiamo portato, soprattutto noi come Assoturismo, che rappresentiamo la piccola e microimpresa, abbiamo portato e abbiamo rassegnato le posizioni delle piccolissime imprese di questa filiera, e ci aspettiamo delle risposte veramente significative. Guardi, io ieri per andare a Roma, io parto da Agrigento, quindi dalla Sicilia, ho preso l'aereo e quindi sono passato da due aeroporti, quello di Palermo e quello di Roma. È veramente devastante vedere tutto vuoto, vedere i negozi e i bar all'interno degli scali aeroportuali chiusi. Questo dà non la sensazione, ma la certezza che per riprendersi ci vuole indubbiamente tempo. Tempo e risorse. Questo bonus vacanze Messina è sottoposto ad una serie di critiche per tutta una serie di motivi. Innanzitutto la complessità del meccanismo, 80% da parte vostra, da parte degli esercenti, 20% da parte delle famiglie che poi si possono riprendere in dichiarazione dei redditi, e dall'altra parte per il fatto che di fatto è uno sconto demandato a voi che già siete in crisi di liquidità. In effetti è uno sconto che finanziamo noi in maniera indiretta, perché poi c'è questo meccanismo farraginoso del credito d'imposta che potremmo anche dare al fornitore piuttosto che ad altri, ma il bonus vacanze da solo non risolve nulla, questo bisogna dirlo a chiare lettere. Un piccolo, se non un timido segnale verso questa ripresa da solo non serve veramente, veramente a poco, però sappiate che noi dall'oggi al domani, come soprattutto alberghiero, abbiamo visto i nostri bilanci nella parte sinistra, quella dei ricavi, azzerati totalmente, nella parte destra, quella dei costi, sono rimasti tutti intatti. Quindi io escludo che ci sia una ferma volontà di non volere da parte delle strutture accettare il bonus, che ripeto è una piccola goccia che poco può fare, poco può contribuire al rilancio. Noi il comparto del turismo è un comparto molto complesso, che per ripartire ha necessità appunto di numeri importanti. Non si può ripartire indubbiamente con un bonus che peraltro può avere senso nel 2021 e poco in questo momento, diciamo, di immediata post pandemia. Ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Io però quello che voglio capire è se secondo lei Messina, però ne parliamo tra un attimo, se ci sarà un'adozione da parte degli esercenti di questo bonus oppure no. tra un attimo. Mattino. Maria, prego. Parliamo di situazioni diverse, evidentemente. Le località balneari, soprattutto quelle vicine alle città, che possono essere quindi raggiunte facilmente, segnalano, almeno nel fine settimana, un tutto esaurito degli stabilimenti balneari. Ho fatto una piccola indagine empirica per capire anche come fosse il mercato delle seconde case, quelle che si affittano l'estate. In alcuni centri non lontani dalla capitale è tutto esaurito. Quindi c'è una realtà che si sta riprendendo. E poi ci sono le grandi città con gli hotel chiusi e lo smart working non fa andare nei ristoranti i dipendenti pubblici che prima, o anche quelli privati che prima li affollavano. Cambierà qualcosa secondo lei adesso con l'apertura delle frontiere? Avete dei segnali in questo senso di arrivi, primi arrivi di turisti europei? Io so che a Roma alcune catene alberghiere di prestigio riaprono, quindi probabilmente avranno ricevuto qualche prenotazione. Ma si riapre perché è importante dare anche un segnale sulla riapertura, perché ad oggi con i dati di cui siamo in possesso e le prenotazioni di cui siamo in possesso oggi, soprattutto le strutture alberghiere preferirebbero stare chiuse, sempre per quel principio dei costi che superano indubbiamente i ricavi in questo momento. L'apertura delle frontiere da sola è importantissima, però deve essere accompagnata dai mezzi di comunicazione, quindi dalla ripartenza dei voli aerei e delle comunicazioni. Parecchi scali aeroportuali sono ad oggi ancora chiusi. Sul fronte delle prenotazioni annotiamo qualche numero, non significativo, ma qualche numero che ci dà qualche soddisfazione nel mese di agosto. Ancora luglio, non parlo di giugno che siamo quasi a zero, ma di luglio le prenotazioni languono. Deve anche considerare, quando lei parla del turismo balneare, che l'Italia come turismo balneare è il primo turismo per importanza, assieme a quello delle città d'arte, che queste stenteranno a ripartire, e se ne parlerà probabilmente. Il bonus vacanze per le città d'arte potrebbe essere un aiuto? Ma certamente, però guardi, per le città d'arte indiscutibilmente dobbiamo attendere l'autunno, e lì in autunno, Dio non voglia, non si deve verificare una recrudescenza della pandemia. Questo sarebbe un colpo mortale per l'economia turistica, non solo del nostro paese, ma un po' di tutta Europa. Il turismo le imprese del turismo stanno cercando lentamente di rialzarsi. È chiaro che luglio e agosto danno, dal punto di vista del turismo balneare, delle soddisfazioni. Viaggiamo attualmente a un meno 24%, consideri che gli stabilimenti hanno messo mano all'apertura a giugno, i primi di giugno, quindi già hanno perso una parte della loro programmazione e dei loro guadagni. Poi c'è il distanziamento fisico che fa il resto. È una stagione tutto sommato dove cerchiamo di contenere le perdite, non indubbiamente di poter fare guadagni. E già è molto importante, sarebbe cosa buona poter traguardare le nostre imprese all'indomani della fine di questa paurosa crisi. Michele da Padova, buongiorno. Buongiorno Spezia. Prego. Allora, perché non proviamo a semplificare una volta ogni tanto queste normative? Eliminiamo questi bonus. Detrazione fiscale del 30%, molto semplice, paga tutti con il bancomat. Il prossimo anno so che il fisco mi corrisponderà un 30% della mia spesa, delle spese fatte nelle strutture ricettive, nelle spese fatte in alberghi, ristoranti e bar, attenzione tutto, in modo tale che diamo liquidità immediata, loro non licenziano nessuno, e il prossimo anno contro bilancio, con un reddito di cittadinanza che non è servito a nessuno perché non ha fatto incontrare domanda e offerta, e ho risolto il problema. Semplifichiamo. Guardi Michele, quando si parla di semplificazione noi siamo sempre d'accordo. Caro Messina, c'è qualcuno che addirittura adombra il sospetto, dice: hanno messo su tutto questo cinema, l'80%, il 20%, eccetera, eccetera, perché alla fine sperano che si usi il meno possibile con beneficio per le casse dello Stato. Questo dubbio l'abbiamo sempre, e ci accompagnerà per ogni provvedimento così farraginoso. Però devo dire, noi anche questa della riduzione dello sconto fiscale lo abbiamo richiesto non solo Italia su Italia, ma l'abbiamo anche richiesto a favore di tutti i paesi europei, cioè del turismo, dei flussi turistici che si muovono all'interno dei paesi della Comunità Economica Europea. Abbiamo chiesto sgravi fiscali anche dal punto di vista del costo del lavoro, perché abbiamo addirittura adombrato la possibilità di poter andare in deroga al contratto collettivo del lavoro, e questo non deve terrorizzare nessuno, ci mancherebbe altro. Noi vogliamo degli sconti e vorremmo degli sconti sui contributi del lavoro dipendente. Questo ci consentirebbe, anziché far fare e far utilizzare gli ammortizzatori sociali e quindi farli pagare dallo Stato, fate in modo che i lavoratori del mondo del turismo possano lavorare e noi paghiamo lo stipendio con un chiaramente bonus per quanto riguarda il costo dei contributi. Le proposte le abbiamo messe tutte sul tavolo. Abbiamo chiesto la riduzione dell'IVA, ci sono anche delle cose storiche, ad esempio gli stabilimenti balneari pagano il 22%, nel resto d'Italia nel resto d'Europa si paga il 10% d'IVA. Noi, scendendo nel dettaglio, le richieste per agevolare, essendo addetti ai lavori, per agevolare la ripresa della filiera del turismo, le abbiamo fatte. Per questo ci attendiamo delle risposte certe, delle risposte serie, così come il governo ieri si è messo all'ascolto delle associazioni di categoria e devo dire ci ha ascoltato. Adesso noi aspettiamo loro di ascoltarli e di ascoltare le scelte che devono necessariamente fare. La ringrazio. Senta, dobbiamo chiudere, molto Maria. Rapidamente. Prima il vicepresidente di Confindustria Robiglio citava il piano Colao. Il piano Colao ha dedicato molta attenzione al turismo. Le elenco alcuni punti che dovrebbero valorizzare e sviluppare l'offerta turistica del paese: incentivi a miglioramenti strutturali, incentivo al consolidamento del settore turistico con la creazione di reti di imprese e aggregazioni, proprio perché c'è una micro impresa. Maria, scusami, io so che in questo weekend a Nessuno è Perfetta parlerai del tema degli uomini che interrompono le donne, e so che in questo caso può sembrare così, ma in realtà sono le 8:55, dobbiamo chiudere cedere, perché c'è la pubblicità. Mannaggia. Grazie Vittorio Messina per essere vitale. Stato con noi. Comunque, le è piaciuto il piano Colao sul turismo, sì o no? Sì o no? Se resta sulla carta, no, se viene data applicazione sì. Ok, grazie Vittorio Messina di Assoturismo, Confesercenti. Ci risentiamo lunedì alle 8:20, cara Maria, e poi con te ovviamente con Nessuno è Perfetta, con gli altri ascoltatori alle 6:30. Ciao.